e parla come ti ha fatto tua madre. Noi siamo tutti figli del latino. Perché ti vergogni di parlare il dialetto? Noi siamo nati sotto la stessa campana. E questo suono ci accompagna sera e mattina. Tu vuoi parlare in italiano, ma ti incerti nei verbi e nelle congiunzioni. E parla come ti ha fatto tua madre. Noi siamo tutti figli del latino. Perché ti vergogni di parlare il dialetto? Noi siamo nati sotto la stessa campana. E questo suono ci accompagna sera e mattina. Tu vuoi parlare in italiano, ma ti incerti nei verbi e nelle congiunzioni. Perché ti vergogni di parlare il dialetto?